vedi un ragazzo in una sala d'attesa, con qualche rosa in mano come in un film. Pensai che fosse una bella sorpresa, ma lui era ogni giorno lì. Mi ricordo lei, dentro una stanza che si sistemava. Diceva fermo non entrare, dai non mi guardare. Ho ancora queste occhiaie, non sono truccata, ma lui non smetteva di guardarla mentre sorrideva, dandole un bacio così lungo che veniva sera. Se c'è una cosa che ho imparato è che chi ama non si arrende mai. Facciamo un viaggio, che ne dici? Immagina le cicatrici, strade di Parigi, le lacrime e il Tamigi. Sarò lì a fianco a te e credimi che passerà. Che vuoi che sia? Ti trucchi un'altra volta, andiamo via. Il cielo in questa stanza sembri te, non vedi che va meglio qui con me, mi prenderò io cura di te. Vidi un ragazzo in una sala d'attesa, con qualche rosa in mano come in un film. Pensai che fosse un'altra bella sorpresa, ma lui era ogni giorno lì. Io che non credo al paradiso né a storie inventate, ma di una cosa sono certo, un po' mi dà conforto, che due persone non si possono dividere finché esisterà il ricordo. E poi passati un po' di giorni lo rividi ancora, se qualche volta il tempo passa e porta via una storia, lasciando solo quella stanza vuota e a terra qualche petalo caduto da una rosa. Da non scherzare fai la brava, davvero non ci credo che tu te ne sia già andata. C'è ancora il tuo profumo nella stanza, non puoi essere lontana, ma passerà. Che vuoi che sia? Ti trucchi un'altra volta, andiamo via. Il cielo in questa stanza sembri te, non vedi che va meglio qui con me, mi prenderò io cura che vuoi che sia. Ti trucchi un'altra volta, andiamo via. Il cielo in questa stanza sembri te, non vedi che va meglio.